guarda, per digerire mi sono preso poc'anzi un piccolo goccettino Jägermeister. Caspita che giornata strana, noi siamo andati a Rosciano a mangiare, no? E poi a fare una speduccia. C'era sole prima, adesso c'è proprio una... se n'è andato il sole, ecco, per non dire coperto, prima era una cappa sottile, no? Di velo atmosferico, adesso sembra coperto il cielo. Perché questo caldo è malato, vedrai domani piove. Non sarebbe male, una bella pioggia che rinfreschi. Domani devo telefonare al... come si chiama? All'autocarrozzeria che fa le revisioni. Domattina gli dico un appuntamento, perché sai, 26, 27, 28, 29, 30, poi finisce il mese. E dobbiamo fare la revisione prima del fine mese, prima che passi il mese, insomma. Quindi mi dirà domani, dopodomani. E così anche quello è fatto, dai. E se non vai da Fiori, da quella che vado io, ti dà revisione cercando di bere i Biaggi. E Fiori dov'è? A Fredanil, dai. Fiori, ma che vendeva macchina anche? Ho capito. Nel vialone, quel vialone che poi va alla Opel. Ho capito, sì. Un'officina grande. Sì. No, sai dove vado io, che è anche vicino. Sini. Allora, tu vai... tu sei già lì, no? Fai il cavalcavia, imbocchi viale Polo Torres, giri da Eurospin e fai quella via interna lì, no? Quella via parallela alla, a viale Polo Torres. Fai 100 metri e sei arrivato. Non è messa male, ma non è fa storie. Poi la macchina c'è, cioè, a posto, i freni, tutto grosso modo è a posto, dai. I vetri li avevamo riparati, abbiamo preso il pezzo nuovo. E, insomma, è a posto, dai. E così ci leviamo un altro pensiero. 80 euro intanto, 80 euro ogni due anni. Che non è che non fa studi, adesso ci sono le telecamere, dove passa la macchina, lui ti fa allontanare per non prenderti tu, però la targa della macchina la piglia. Sì, me l'hanno detto che addirittura hanno messo le telecamere, non sia che uno passasse un'altra macchina al posto di un'altra. Figa. Vabbè, ma chi deve preoccuparsi, chi c'ha che macchine con gravi effetti, che fumano nero, soprattutto i diesel, che era bene o male a posto. Gli ammortizzatori, vabbè, sono quelli che sono, ma sono uguali a due anni fa, noi la usiamo poco, non è che facciamo migliaia di chilometri, no, all'anno, ne facciamo molto molto pochi. Caspita, c'era una cappa di caldo, una volta uscito dalla macchina, mi è tornato a casa, minchia. Proprio affa, una cappa di caldo soffocante. Adesso sono ancora tutto accaldato e sono in mutande. Mi sono bagnato la faccia e i capelli si sono già asciugati, pensa. Sì, cosa avevo? Un ghito caldo che spendi, Marco, non ci vuole niente. Cosa ti volevo dire? Controlla che ti funzionano gli stop. Se c'è la luce della targa che funziona, perché a me mi ha detto roba per la luce della targa, infatti mi ha cambiato subito la lampadina prima di portarla, la fai frenare, guarda se accendono gli stop, guarda se accendono tutte le luci, praticamente controllalo. Sì, quello sempre d'obbligo, controllare tutto, frecce, stop, luci di posizione, abbaglianti, anabbaglianti e la luce di posizione anteriore anche, deve funzionare tutto. La luce targa l'ho cambiata anche da poco, l'ho vista spenta, non ci ho dormito la notte, lo sai, sono andato subito a Rosciano a comprare la luce targa e se trovi la strada ti fa un bel storie. Poi ho visto una chiamata tua di stamattina alle 10, io alle 10 mi stavo girando dall'altra parte, Antalì, ho dormito fino alle 2 passate, e cosa volevi, andare a sparare, scommetto? Sì, gatto, non so come definirti, a farci un giro, cazzo, a pigliare un po' d'aria di mare, non lo so, ci prendevamo un gelato io e tu, cazzo, invece boh, sempre drummito, vicio Marco, cazzo. Ehi, guarda, siamo andati ad Oceana alle 2:30 passate, 3:20, forse 3:15 anche. Mi sono dovuto fare la barba, che era, sembrava un profugo. E abbiamo mangiato a McDonald's, solite cosettine, dai. Poco comunque. Tipo un cheeseburger a testa e poi mezza cosa di patatine medie. Non mangiamo quei paninoni grandi, no? Costano anche un baby, 5 euro l'uno, anche di più, a vera voce. A noi basta un cheeseburger e le patatine, abbiamo lo stomaco piccolo. Cazzo. Oh, yeah, yeah. Chiudimi la televisione che... Ma lei, se chiude lei però su modulo e lei non si guarda la TV. No, che sta uscendo, sta andando dalla manica sua, spegnimi quella luce. Che non ci fa nulla la luce accesa. Adesso ti tiro una pistolettata da qua. Anche quella di cucina è accesa, chiudimela. Natalino è un despota, capito? È un dittatore. Cazzo, ma è roba da chiudi, cosa mi la dà accesa a fare la luce? Ehi, mamma mia, guarda, anche a casa c'è caldo, sono 27 gradi e mezzo in casa, con le finestre chiuse, mi viene voglia di riempirci un po' di vasca, non fare la doccia, mi, anche la doccia va bene, doccia fresca, di riempirci un po' di vasca con l'acqua fredda e metterci dentro, e stare dentro, mi, come quando fai il bagno. Ma lo sai invece che tu stai sbagliando a partire la doccia fredda, non si fa. Devi farti la doccia normale, con l'acqua miscelata, calda e fredda, quando unisci la doccia usare un breco che vai. Io faccio sempre così. Nel senso, quando dico fredda non voglio dire proprio doccia come in inverno, no. Appena appena di acqua calda ci vuole, ma che sia acqua fresca, mi. Bello che ti rinfreschi la pelle, che ti raffreddi la pelle, capito? Di sotto col caldo che c'è sta sempre lavorando, sta sempre segando, tagliando, inchiodando, mamma mia, è una cosa incredibile. Lo sai che una volta a Natalì, anni fa, c'erano roba di 38 gradi all'ombra, era successo anni fa, era un caldo eccezionale, non come adesso, no, un caldo da morire, e questo era in giardino sotto il sole lavorando. Cazzo, ma non è fatto, non gli è venuto, no, non gli è venuto. E stava costringendo il figlio, anche tredicenne, a lavorare con lui. Ma era un giorno da 38 gradi all'ombra, mia, una cosa mai vista. Quello di essere pazzi, ha rischiato di beccarsi un bel colpo di calore, tipo insolazione. Purtroppo questa è razza, come dire, popolare, popolino, ma molto resistente, capito? Io invece sono tenero di resistenza. Questi invece sono, caspita, non gli viene mai nessun accidente a questi, pure col caldo a 40 gradi. E va bene, poveracci. Ok, naturalmente qua era deserto, mi pare anche ieri. Ah, scusa, ieri Natalì, perché mi ha chiamato Giulio, dovevamo discutere di una cosa, di un acquisto, insomma, roba di radio, e sono andato via senza salutare, e poi non sono rientrato più. E infatti io ero lì come un pirla che vi aspettavo, e poi non è entrato più nessuno, ho preso spento e me ne sono andato a cenare. Stavamo parlando di vendo, compro, vendo. Ha detto ormai che non è che conviene più comprare niente, nemmeno un microfono da palmo, per come la 27. Oh, non c'è più nessuno, è quello il discorso. Già quella volta mi avevi detto, ne poco duzzo, non vuoi mai nessuno, figurati adesso, dopo giorni di calma totale. E infatti, mica c'è ciucucciù sotto. Che avanti ciucucciù. e questo non respira bene, ma è ammalato. Segando sta a me. Segando sta quello di sotto nel giardino. Segato lo trovino. E c'è una resistenza a casa, come mia zia. Lo sai che ieri è venuta, ci ha fatto lo scandalo perché la casa era in disordine. Io ho preferito starmene in camera e stare zitto perché veniva voglia di dire, ascolta, ma cos'è questa cosa che alzi la voce in casa d'altri e fai da padrone in casa d'altri? E invece mi sono trattenuto, sono stato zitto. Poi giustamente noi dovevamo andare da Macro, l'avevamo già deciso dal giorno prima, alle 5 di pomeriggio dovevamo andare da Macro. E gliel'abbiamo detto, dobbiamo uscire alle 5. E lì, ah, va bene, va bene. Però capito, noi siamo disordinati, è inutile che lei viene e ci vuole fare la casa perfetta, noi siamo disordinati, lo siamo stati da quando siamo nati, è inutile che lei ci vuole insegnare a fare la casa perfetta, non ce ne fotte nulla. Noi abbiamo una casa sempre vissuta, abbiamo troppe cose, mettiamo roba in mezzo, non siamo di chi che hanno la casa tipo museo, capito? Tutto perfetto, non c'hai nulla in vista. Poi io lo stesso in camera, c'ho talmente roba che non so più dove metterla, c'ho un casino di roba sulla sdraio, c'ho tutta roba da vestire che non c'entra più negli armadi, pensa. Poi oggettistica, lo stesso ne ho un beccio, il tavolino tondo pieno di roba, c'è di tutto e di più, di tutto e di più. Ma questa come si permette di rompere le balle in casa ad altri? Boh, io non ho capito. E sai cos'è? Perché con la scusa che lei ci aiuta, no? A tenere in ordine, a tenere pulito, quando noi mettiamo casino dice, allora io sono venuto inutilmente a faticare inutilmente perché voi ve ne fregate. Ho ragione, ma c'è troppo caldo, io anche a lavare per terra con questo caldo mi sento quasi male, sudo un bel, lo posso fare di sera, tardi, quando c'è il fresco, invece lei lavora tutto il giorno, tutti i giorni anche col caldo, capito? Lei c'ha una resistenza fuori del comune. E io gliel'ho detto, noi non abbiamo la resistenza che tu, e stavo per aggiungere, una persona intelligente lo dovrebbe capire, che quello che fa lei, noi non riusciamo a farlo fisicamente. Poi non l'ho detto però, questa è la persona intelligente, gliel'ho detto solo così. Devi capire, noi non abbiamo la fibra tua, lei c'ha la fibra di questo 18, che lavora anche con 40 gradi, pure lei lì. Eppure c'ha 65, no, 67, 68 anni, una cosa del genere, eppure trozzami. E basta, mi piccoletta, è una nerottola, eppure c'è una forza di fare, sta sempre lavorando, guarda, a casa sua lavora, quando va nella casa di via Provincetta lavora, quando va nel monolocale lavora, quando va in campagna sta sempre a lavorare, a tagliare, sai, zappare a terra, pure pulire dalle erbacce, innaffiare, sta sempre facendo roba. Io mi chiedo, è una nevrosi, l'ha riconosciuta, io mi chiedo a questa donna, quando non potrà più muoversi, come si suicida? Quella si spara. Sì, perché lei ha detto che stare fermi è come sprecare la vita, e quando sta ferma pensa alla morte, capito? Quando... così, e vabbè, anche io ci penso alla morte, è una cosa brutta, purtroppo inevitabile, avrei voluto vivere 1000 anni per vedere tutti i progressi della scienza, dell'umanità, sempre che ne facciano i progressi in futuro, ma forse è meglio non vedere il futuro, magari è peggio di adesso. Infatti. Mamma di turchi. Comunque a Ocean ci stava bene, c'era il clima, ne abbiamo trovato qualcosetta, tipo pizza ristorante, quelle pizze di Chicchiami della Findus o cos'è, pizza ristorante della Buitoni forse, quelle da mettere nel fornetto e scaldare. Poi di frittelle con crema, ciambelle con crema, quelle che piacciono a me, budini, banane, poi cose per la casa, un po' di carta per la cucina, piccole cose di tutti i giorni, dai. Sì, cambiando argomento, allora sai che c'era un islamico lì che ha detto come passa lo Jussuri comanderemo noi in Italia, compreso? Come ha detto, come passa noi? Se passa quella legge che stanno bottando lo Jussuri a dargli la cittadinanza a questi immigrati, no? Dice che poi comandano loro. Non ci scherzare tanto. Perché dice che questi musulmani in quei paesi non fanno altro che fare figli, hanno 10 figli. Poi si stanno espandendo in Italia e non solo. E poi, come dice quel ragazzo di destra, si perderà l'identità storica e non solo del paese, capito? Avremo questi Zulu che non sanno niente della storia d'Italia, capito? Che non hanno nozioni della storia italiana, di tutta la... Avremo queste specie di italiani non italiani, capito? Insomma, dice che l'Islam si diffonderà, potrebbe diffondersi nel mondo, perché questi fanno figli su figli, fanno guerre contro tutti, e in un futuro lontano, ma non molto, potrebbe diventare islamico la maggior parte del pianeta, lo sai? E infatti, basta ammazzarli tutti prima di nascere. Poi perché bisogna diventare religiosi? Io sono ateo, io posso credere anche che ci sia qualcosa, un'entità, un creatore, ma non devo seguire la religione, tipo che dice il venerdì santo non mangiare carne, cosa gliene frega a un creatore dell'universo se mangiamo carne venerdì? Quelle sono cose inventate dagli uomini, ricordati. Infatti, io già... Io già credo in cui voglio credere, in quello che voglio credere io e buh, capito? Veglia, poi una volta avevo chiesto, parlando di religione, chi l'ha scritta la Bibbia? La Bibbia l'ha scritta Dio, e io come ente, chi è che l'ha scritta la Bibbia? Vabbè, l'hanno scritta degli uomini ma ispirati da Dio, l'hanno scritta uomini, basta. Tutte quelle regole, quelle festività, se le sono inventate gli uomini, non è sceso Dio in persona a dettare quelle cose. Poi quella cosa delle tavole delle leggi sono tutte ammenate, capito? Vabbè, poi ognuno dice che la sua religione è l'unica vera religione, i musulmani dicono che loro è l'unica vera religione, noi diciamo lo stesso, i buddisti dicono lo stesso, allora vedi che è una questione di cultura, ogni cultura ci fa la sua religione, quindi è tutto inventato dall'uomo. Io credo in quello che mi fa più comodo. Fai bene. Però piuttosto mi dovresti aiutare, che devo caricare delle cartucce, no? E tu dovresti tagliare, io compro un pezzo di carne di maiale e tu gli devi mettere il pezzo della carne del maiale dentro. Cosa vuoi fare? Le cartucce con lardo salato? No, della pistola, per mandarli direttamente all'inferno questi islamici. Se li spari la carne di maiale in bocca. Ecco, no, in bocca no, li sparo, li ammazzo e così però loro se toccano la carne di maiale vanno all'inferno direttamente. No, non è intenzionale, loro dicono che se la cosa non è intenzionale ma è al di là della loro volontà non è peccato. Ecco, allora bisogna una buchetta, io mi si la infilo in bocca. Allah è grande. Inshallah. Inshallah non so cosa voglia dire. Invece Allah Akbar vuol dire Allah è grande. No, pensa, guarda quanto sono. Non vuol dire Allah è grande, vuol dire Allah è il più grande. Come dire il più grande di tutti, capito come sono? Come credo loro abbiano il Dio più, che sia l'unico vero di solo Dio, puzzinosi. E mica ci sono versetti del Corano che incitano proprio alla violenza, dice cazzo che devi, gli infedeli vanno massacrati, capito? No, non proprio, quella è una loro interpretazione, se la sono girata come gli fa comodo a loro. Di solito il Corano non è così, anche da noi la Bibbia c'è un punto che dice, non so, il tempo per pregare, il tempo per combattere, come dire, no? Allora anche noi diciamo, ah, la Bibbia dice che ci può uccidere, combattere, uccidere, no, è troppo comodo. No, no, già se la interpretano come fa piacere a loro il Corano, non ti preoccupare, poi ci sono questi man che incitano proprio alla violenza. Purtroppo c'è la gente normale come noi che vuol vivere tranquilla e ci sono gli estremisti che vogliono fare casino e poi casino, poi come ho detto l'altra volta in termini più rozzi, poi mi sono corretto, sbarcano tutti qua perché l'Italia è la meretrice del Mediterraneo, cioè dove vuoi sbarcare dall'Africa, c'è l'Italia davanti, tutto il bacino, anche in tempi antichi, no? Altro che l'orgoglio della Sardegna. In Sardegna venivano a trombarsi le donne sarde, tutto, turchi, africani, ispanici, tutto il Mediterraneo, greci, venivano a trombarsi le donne sarde perché era in mezzo al Mediterraneo, capito? Quindi noi siamo, diciamo, l'equivalente di tutte le razze del Mediterraneo. E infatti, e poi c'è anche un'altra cosa, che loro vengono in Italia perché in Italia possono rubare e non vanno in carcere, capito? Intercettati proprio, roba sentita veramente da loro, detta da loro, capito? Purtroppo sai cos'è? In Italia le leggi ci sono, ma non c'è la certezza della pena, perché i carceri sono sovraffollati. E io ho detto, allora, invece di fare, di dare mangiare al Parlamento, costruite più carceri, costruite molte più carceri, almeno cosa che ti dica? Il casino è nato lì. Ormai chi ammazza si prende massimo 10 anni, 15, poi c'è la buona condotta, ne tolgono 5. Sono indulti e indultini, ne tolgono altri 5 e alla fine uno si fa 5 anni per un omicidio solo e poi esce. Anche italiani, dico. Sì, fallo in America a vedere. Mamma mia, in America sono esagerati, Hai visto quel programma sul 52, Cops? Lì anche se fai un'infrazione stradale ti pigliano le impronte digitali, ti fanno le foto segnaletiche. Ma stiamo scherzando, cioè ti portano in gabbia, ti fanno tutti i rilievi, ti schedano per qualsiasi fesseria, anche se sei ubriaco in strada, capito? Sono un po' anche di destra lì, sono fascistoni. Guarda, io vedo sempre quei filmati che fa Claudio il Texano, uno è un italiano che era poliziotto della stradale, no? Quindi si sapeva comportare questo. E lui vive in Texas lì, beh, lo sai che l'hanno anche ammanettato, l'hanno, quando l'hanno fermato la polizia lì. Ehi, lo so. E lì sono tremendi, anche quelli della stradale. Guarda, c'era un video celebre, siccome questo si è rifiutato di firmare una multa, un verbale, e se ne stava ritornando in macchina, quello gli ha sparato col taser nella schiena e la moglie che era in macchina, la moglie incinta che era in macchina, era terrorizzata, era urla, perché ha visto il marito a terra, tutto che tremava, no, per la scarica, il taser vero, mi corre e spara di retro, cioè qua se non vuoi firmare una multa ti dicono vabbè non la firmi, vuol dire gli arriva con Equitalia d'ufficio, e lì invece ti sparano col taser solo perché non hai firmato la multa. Quelli sono matti, in America sono matti veramente. No, è che adesso sono ancora più duri, perché prima volevano i civili e i militari, no, adesso invece la polizia l'hanno militarizzata proprio, prendo tutti gli ex militari e si sa che i militari sono più duri della polizia, no? Quindi trovi un poliziotto del genere e ti fa pezzi, ti cudiba la minima cosa, capito? Tu come ti fermano devi obbedire lì. Se ti chiede mi dia la patente, tu gli dai la patente, posso prendere la patente dalla tasca sinistra, compreso? Non lo devi guardare mai in faccia, perché se no, cazzo, lo stai sfidando, ed è vero. E lui, e tu lo stai distraendo, perché lui non può vedere cosa stai facendo con le mani. E cazzo, ci mette poco a togliersi la pistola e a spararti. Sì, sì, infatti mi ha detto un amico, ex amico, che era stato in America, e lì quando fanno i controlli non è che ti puoi dimenare come fanno qua certi che partono di testa. Lì se ti dice di tenere le mani sul volante, le devi tenere sul volante, non le devi muovere, non devi fare scatti, perché se no quello può credere che stai prendendo un'arma. Poi sai, lì la situazione è più delicata, perché sono tutti armati, lì i delinquenti non sono meno nostri, lì sono molto più delinquenti dei nostri, c'è gente proprio pericolosa. Devi tenere le mani sul volante, quando ti dice di pigliare il documento devi fare piano, devi vedere cosa prendi, insomma. Io, anche se mi fermano i carabinieri e la polizia, io faccio i movimenti piano, cioè faccio vedere, prendo il libretto, otto con due dita, piglio lo stesso i documenti piano, non devi fare roba a scatto, perché anche loro si possono preoccupare, no? Cioè non sanno con chi hanno a che fare, giustamente lo dicono. Ma lì in America è peggio. Se ti dice resta in macchina, non devi uscire dalla macchina e protestare, roba del genere, perché cazzo, ti pigliano il tonfa, ti spaccano le ossa. Infatti, devi stare attento a come parli lì, perché per esempio glielo devi dire subito che sei armato e che hai il porto d'armi. Perché gli devi dare portarmi la patente subito, se sei armato, perché tu ce l'hai nel cassettino della macchina, la pistola lì. E se ce l'hai devi dire IF e pistol, non gli devi dire IF e gun, sennò gli su di para. Sì. Poi se ti dicono prego, poggi le mani sul cofano e allarghi le gambe, devi farlo e boh. Senti, no, guardi che io sono tranquillo, che problema c'è, cominciano a fare casino. Allora il poliziotto lì è... capito, non sanno con chi hai a che fare. E bisogna seguire i prodotti alla rete e rispondere sì signore, yes sir. Quando ti fa una domanda devi rispondere chiaramente, sì, no. No, con certi, no, cosa mi sta chiedendo? No, non so niente io, no. Certi sono pazzi, hai visto i controlli, no? Su 502 lì. Fanno casino, giustamente, quelli partono, ti spattano a terra, cazzo, ti piegano il braccio, ti mettono le manette. Poi però ci sono poliziotti che fanno eccessi. Per esempio, quello che ha sparato il taser nella scheda di un uomo perché si è rifiutato di fermare una multa, quello mi pare era stato punito, credo, perché quello veramente è un eccesso, è un abuso, è una tortura quella. Poi c'è stato un caso recente, un caso bar recente in America. Tu hai presente gli spray al peperoncino, no? Sì. Ecco, la bomboletta spray è una cosa, anche blanda. Tu lo conosci il Jet Protector, JPX? È una pistola che ti spara questo oggetto di cose. Sì, praticamente è una pistola. E tu metti questo caricatore, che praticamente sono due lunghe bombolette che contengono ognuna 10 mm di olio resin capsicum, no, peperoncino. Però c'è anche un bossolo come innesco, un bossolo, proprio un vero bossolo della RWS. Cioè quando tu punti in faccia questa pistola, spari un getto proprio di liquido, di peperoncino, fino a 6 metri di distanza. Cioè ti arriva una fucilata di peperoncino in faccia e tu non vedi più niente. Però siccome è molto veloce il liquido, è molto potente appunto, raccomandano vivamente di non sparare sotto 1,50 m. Cioè se c'è uno che ti si avvicina troppo gli devi sparare al petto, in modo che rimanga un po' così stupito, no? Ti devi appena gli spari retrocedere, allora li puoi sparare in faccia, ma non bisogna andare mai sotto 1,50 m, perché la violenza del getto ti può fare cieco. Beh, un poliziotto americano stronzo, proprio stronzo, perché lì è ceduto, a una donna nera, ovviamente nera, chissà perché sempre negri, gli ha sparato a distanza molto ravvicinata, per non dire attaccato, e l'ha sparato agli occhi, l'ha fatta cieca, lo sai, proprio è diventata cieca a tutti e due gli occhi, gli ha spaccato il bulbo oculare da quanto era vicina. Quello è stato un abuso vero e proprio, quindi è stato denunciato, un casino ha passato, capito? Intanto quella donna è diventata cieca, lo sai. Guarda che le regole ci sono anche lì, se tu sbagli paghi, e come se paghi? Perché lui ha detto sì, qua ci sono le armi, facilità di prenderle se sei incensurato, capito? Cartucce ne puoi tenere quante ne vuoi, armi quante ne vuoi, non ce n'è conto, compreso. Lì quando tu hai il portalarma fai come faccio io me la compro, vado e me la compro e me la danno, subito. Invece lì per esempio ti dicono passa stasera o passa, sono anche più fiscali di noi, perché loro guardano un database normale, se non c'è niente passano a quello dell'FBI e lì se hai qualcosa te lo dice, anche se tu sei per esempio un soggetto che soffre di qualche cosa a testa e prende una medicina, lì risulta e allora non te lo danno il portodarmi. Beh, veramente anche qua in Italia, perché uno non è che deve pigliare antidepressivi se è messo male. Cioè se una persona è messa male, loro lo sanno, in base a quello che prende, e non gliele danno a porto d'armi. No, ma qua non risulta un cavolo, non risulta, a meno che il tuo dottore no, aspetta, stai mettendo tutto un casino, stai facendo con sé, un attimo che metto la pettolina al capo. Io vado a bere un attimo. Auli Uli. Allah e bar. Passa via, sì, ma certi sono cristiani, lo sai. Uno una volta gli ho fatto dalla finestra, Allah Akbar. No, io cristiano. Capito? Anche i cristiani stanno facendo così, li vogliamo, sono più ben voluti. No, già ci sono, anche uno che conosco io è cristiano. Capito? Non sono tutti musulmani. Sì, è vero. E quindi è nata lì, quella donna lì l'ha fatta cieca. Pensa che lo vendevano, lo vendono anche in Italia, ma in Italia te lo fanno pagare molto, molto di più. Pare che sia libera vendita, e porto non lo so, comunque siccome contiene 20 mm, 20, cazzo scusate, allora contiene 20 millilitri di prodotto attivo, quindi rientra nelle norme che hanno fatto per questi qua. Per esempio se tu c'è una bomboletta da 40 millilitri, da 50, non si potrebbe più portare, non si può. Devi portarti quelle bombolette da 20 millilitri, le vendono, le vende Chen. Però questo jet protector, caspita, puoi fulminare uno a 4-5 metri, è proprio istantaneo, fa il bottomi, sono proprio, si vede il fondello con i bossoli RVS che ha capito che dà la propulsione per spingere questo liquido fuori, è bello mi. Allora in Italia te lo fanno pagare una follia, lo vendono dalla Germania a 180 euro più gli accessori, te lo danno 180 euro con già un caricatore che comprende due spari, no? Poi vendono fondine di tutti i tipi, vendono i ricambi delle cartucce, vendono la cartuccia d'allenamento, capito, senza peperoncino, è un bel acquisto quello mi, da portare appresso mi, altro che bomboletta. Ma ci sono anche quelli meno potenti di quello che stai dicendo tu, c'è anche un altro tipo di pistola che c'entra il dito dentro. È un'altra pistola più piccola di quella che stai dicendo tu. Il Guardian Angel, lo conosco, Guardian Angel, sono due colpi ed è usa e getta, costa 35, 38, dipende da chi la compri. Però sai, tra l'altro è già una, caspita, sembra un'arma vera, mi, da dietro sembra una Glock, soprattutto se è la versione nera, perché vendono anche la versione arancione, no? Nera è uno spettacolo, Natali, se lo metti in quelle fondine, sai quelle fondine in polimeri tipo Glock, mi, quelle rigide, è uno spettacolo, e poi è molto efficiente, e soprattutto puoi ricomprare le cartucce. Ma tanto non la userai mai, basta comprare una di quella usa e getta, due colpi. se dovesse succedere che qualcuno ti aggredisce, gliela spari in faccia e poi lo picchi pure, perché quando lui non vede più un cazzo tu picchia subito di brutto a calci ai reni, lo prendi. No, non si può, non si può, dicono che se già lo rendi incapace di offendere non puoi infierire, non puoi infierire, capito? È troppo comodo sarebbe, e lo fai cieco, cazzo, già non vede nulla, e in più lo meni pure. No, già è bello un oggetto, molto molto bello. Insomma, alla fine ti costa roba di 200 euro, con la fondina ti viene 230 o di più anche. Cioè, costa un po', costa un po'. Ma una volta le usi, cazzo, gli dai una fucilata di peperoncino in faccia. E basta anche l'altra più piccola. Io sono propenso a quella più piccola. Capito? Tanto non lo userai mai, ma se caso mai proprio dovessero aggredirti, prima gli butti il peperoncino, poi lo picchi e in ultima istanza chiami il 112. Eia. Eia. No, sai cos'è? Quelle piccole non mi piacciono, cioè piuttosto di prendere quelle Guardian Angel, preferisco una bomboletta o a spruzzo diffuso o a getto più stretto. Una bomboletta, capito? Oppure quello lì, il Jet Protector è bello proprio come oggetto, è uno spettacolo. Certo, non ti capiterà mai, però sai, quando ci trovi qualche stravagante, no? Almeno puoi ribattere. E se si gira, gli spari in faccia. Pazienza, peggio per lui che se l'è cercata. Sì, infatti. Però devo provare, tanto devo andare a comprarmi le palle che le ho finite. E vado in armeria a vedere se c'è. Se c'è me la compro lì. E cosa? Ho la pistoletta, quella piccola, oppure la bomboletta. Eia. Guarda, Chen è caro, perché è un bel caro, però ha proprio le TV 1000, TV 1000, TV doppia 1000, Tango Whisky 1000, da 20 millilitri, che sono sottili, no? 20 millilitri. Ma ha voglia spruzzarne, amico, 20 millilitri? Se no puoi chiedere se hanno quelli lì, Guardian Angel, guarda che hanno fatto il Guardian Angel, il primo, poi il secondo, poi hanno fatto anche il terzo, Guardian Angel. So che, cioè, sono piccole, vedi Natalie cosa... Quando uno, se uno ti vuole attaccare, aggredire, quando vede quel pistolone, il Jet Protector, ci pensa anche due volte, e dice, cos'è sta roba? Chi non lo conosce può pensare che sia roba anche letale, amico. Sì, infatti. Ma sempre meglio... Tu non glielo fai vedere, glielo spari direttamente quando vedi che uno ti aggredisce. E da buri cu di buru voci, quando vedo cribato in terra, allora già mi dica carabiniero, guarda. Certo, se fa in tempo, perché sai come fanno molti, no? Non che fanno storie da lontano, arrivano vicino, ti partono di brutto e non riesci a fare nulla. Quelli sono i più pericolosi, vedi, quelli che ti zitti, poi ti arrivano vicino, oh, ti partono di brutto. E lì non riesci a fare nulla. Sì, lo dici tu, lo facciano a me, a vedere. Forse non avrei neanche la necessità di quelle bombolette. Ehi, se ti arriva un ventenne nel piano delle forze, Natali, il culo ti rompemi. Ma cosa? Che grande città c'è, bisogna di 40 debiti da faccia e 350 buoni. Chi lo sa, Natali? Meglio sempre non esserci nei casini. Perché sai, nonostante sia... Poi sai cos'è? Molte certe armerie dicono libera vendita, ma libera vendita non vuol dire libero porto. Cioè magari vuol dire te la puoi tenere in casa esamini voci, in casa piglio una roncola, capito? Mi riferisco a quella. Certe Almeria hanno detto libero forzo, però quello è tutto da vedere. Se rispetta i requisiti in teoria la puoi portare, però sai com'è, la polizia se ti difendi con quello sempre indaga, perché ricordati gli ottusi, no? Detto proprio papale papale, nonostante dici che risponde ai requisiti di legge, loro devono sempre accertare che sia vero, capito? Perché non sanno le leggi, detto papale papale, non lo sanno, loro devono accertare. Guarda, c'è un fatto di cronaca, uno si è dovuto difendere da un automobilista un po' troppo fuori di testa, si è difeso con quello e nonostante ciò i carabinieri hanno dovuto sequestrargli l'arma, questo oggetto è protetto, e accertarsi che fosse a norma di legge, ma lo deve sapere già a memoria che è a norma di legge, non ogni volta che sequestri magari indaghi pure la persona, capito? Ha detto un poliziotto giovane, dice ma guarda che è norma di legge, noi sequestriamo comunque, ti va a dire, capito? E quello vuol dire che non hai ossale in giunta o non conosci le leggi? No, allora è logico che devono indagarti, cazzo, però perché c'hanno i brigliutti come i cavalli, loro vedono solo dritto, si chiudono la mente quando entri in polizia o nei carabinieri, capito? A destra e a sinistra non vedono perché hanno i brigliutti. Ehi, ruba occhi. Però dico, se io mi documento e so che è una cosa legale, perché non si devono documentare loro, capito? Loro partono dal presupposto che quello che ti porti appresso è sempre illegale, capito? Mi ti faccio il suono, mi. Cazzo, ti sto dicendo che sono giusti, però una volta che accertano che è in regola, perché io se vado a comprarla mica vado da Cen, io vado in un'armeria, quanto costa tot, si può portare appresso, perché se l'armiere te lo deve dire se tu lo puoi portare, capito, se no. Se è di libera vendita solo e tu non lo puoi portare, cosa cazzo me ne faccio? In casa c'ho il randello, c'ho il coltello da cucina lungo 60 centimetri, ma che cazzo, altro che quello. Già lo credo. Quella la roncola, poi vediamo. Però, sai cos'è, se tu vai a chiedere a 100 armieri diversi, 100 poliziotti diversi, perché da un paio ti dicono 100 cose diverse, te lo dico io, te lo garantisco, capito? L'importante è sapere la norma di legge, poi si vedrà. L'importante è che, scusa, come dicono, meglio un bel processo che un bel funerale, un brutto processo che un bel funerale, capito? Una volta che tu sai che è legale, che si può portare, punto, la bomboletta non dice che te la devi tenere a casa, una volta che i requisiti di legge li copre, e vabbè, comunque è sempre lungo il discorso, dai, ti ho detto, 100 teste, come si dice, 100 goncas, 100 goncas, boh, non me lo ricordo. E che tu mi irrita, 100 teste, 100 capelli. Eia. Cioè è inutile che uno allora c'è al porto d'armi, esce con la pistola, la persona l'ammazzi, con quello no, sempre quello, cioè in Italia, no? Per esempio in Francia, ci sono, soprattutto in Francia, in tutta Europa tranne da noi, e in Inghilterra anche, ci sono le armi non letali, cioè sono pistole che sparano palle di gomma, da noi no, porto d'armi, se non è letale cosa cazzo ci vuole porto d'armi? Niente, porto d'armi per pistole che sparano pallotto di gomma che fanno anche ridere, che se uno è drogato manco lo sente le palle di gomma. Fanno di tutto per vietare tutto in Italia, anche le armi non letali, capito? E poi dicono che il CS, lo spray al CS è una cosa, una cosa da guerra, un aggressivo chimico da guerra, però la polizia le usa contro i manifestanti che manifestano per i loro diritti, capito? Lo usano come? Capito? Tipo in ottavo. ne hanno, dice che hanno usato roba di 4.000 granate, come si dice? Al gas CS, lacrimogeni, 4.000 hanno sparato, dice che hanno risentito persino i poliziotti di quanto gas c'era, cioè il filtro della maschera antigas non ce l'ha fatta a filtrare tutto quella percentuale di gas. Ehi, perché ne hanno sparato troppe, è logico, si sono poliziotti intossicati via. A parte che se vogliamo essere pignoli, io ti devo dire una cosa, i poliziotti, perché la polizia usa le maschere DPI Secure modello, aspetta che modello era, il C607, notoriamente il modello C607 è di classe 2, non è di classe 3, le maschere che ho io sono di classe 3, capito, le maschere sono di classe 2 e certe volte non riescono a filtrare più di tanto. Capito? Le maschere mie sono di classe 3, sono per usi speciali proprio, anche per guerra chimica, detto tra noi, no? Capito Natalia? Ecco perché sono superiori le mie alle loro. Uia, se hanno i giubbotti proiettili che non servono un cazzo loro, figurati, che se gli sparo con la mia cazzo li passo. Ecco, invece Natalia, allora poliziotti la C607 classe 2, invece devi vedere cos'ha la finanza gli ho visto usare la finanza, la maschera proprio dell'esercito italiano, la M90 che è un bijou, quella è un bijou, quella proprio adatta anche a guerra chimica, quella veramente bella mia trofata, e sai chi la produce? La produce la AeroSecure. Solo che i costi sono proibitivi e la vendono solo alle forze dell'ordine, credo, cioè non è che tu vai e te ne ordini una, non è così, purtroppo non funziona così, se no ce l'avrei già, ma se ne è già presa, perché sto prendendo anche questa cosa di collezionare queste cose qua. Quindi la finanza l'ho vista con quella maschera lì, proprio dell'esercito. I carabinieri li ho visti con la pregiatissima, aspetta come si chiama, mannaggia, non mi ricordo come si chiama, è comunque una maschera proprio CBRNM che usano gli americani, va bene anche per la guerra chimica ed è in policarbonato che resiste anche alle schegge, cioè se tu ci spari una scheggia a tutta velocità non ci rompe il policarbonato. Però non mi ricordo il nome di quella maschera, mannaggia. Oggi in presenza, i carabinieri erano dell'esercito e quindi riescono a procurarsene. Eppure stranamente i carabinieri, quelle ce l'ha, non è una maschera regolare dell'esercito italiano. Insomma, in poche parole usano quelle, Allora, la C607 è la polizia. La finanza o parte della finanza ha usato proprio l'M90 dell'esercito italiano. I carabinieri hanno usato questa maschera di cui non ricordo il nome, che diciamo è prodotta anche in Italia ma lo usano in America. In America è molto pregiata come maschera. Se riuscissi a ricordare il nome, porco Giuda, guarda. E tutti te ne. Vuol dire che gliele danno a loro, capito? Ne avranno comprato uno stock e la danno a tutti i carabinieri. Eia, sì. Sì, fanno così, giustamente, forse l'ordine, possono ordinare quello che vogliono. E sono di classe 3, quella militare, poi classe 3 non ne parliamo, è veramente, veramente bella. Quella americana, non ne parliamo, addirittura c'ha la specifica CBRN, proprio che usano gli americani. Che poi CBRN vuol dire NBCR per noi, NBCR per noi, loro lo chiamano CBRN. NBC diciamo è un termine antiquato già, che secondo loro NBC vuol dire nucleare, biologico, chimico. Hanno aggiunto questa R in Italia, NBCR, che vuol dire radiologico, capito, rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico, che poi radiologico è uguale a nucleare, è una stronzata che hanno voluto aggiungere, Natalia. Infatti, via. Azzo, a proposito, anche Claudio il texano, puttanata la berezza, cazzo della puttanata. Ma appena Salino che arrivo, la Beretta anche lui ha, peggio per lui, era meglio la Glock. No, ha sputtanato la Beretta, che lui era poliziotto della stradale. Eccomi qua, dimmi tutto, ha sputtanato la Beretta, così è. E la 92 che hanno? È logico, cazzo, se tu la tieni per 8 ore, 6 ore anche, ti buca il fianco, dove ce l'hai, che pesa un chilo e qualche cosa. L'ha chiamata Ferraccio, quel Ferraccio della 92. Lui ha detto, non me ne vogliano quelli dei militisti, però è così. Una cosa è sparare due tiri al poligono, una cosa è tenerla addosso per tutto il servizio. E c'ha ragione, perché pesa un chilo e due. Già lo credo. Quello è niente, guarda, io ho tenuto in mano una P22, Walther P22, semiautomatica, calibro 22 long rifle, ed è una piuma. Poi ho tenuto in mano quelle armi della, come si chiama, la guerra, quella era salva ma era identica all'originale, proprio in tutto e per tutto anche nel materiale. Aspetta, fammi pensare. Modello Colt Navy 1851, le armi della secessione americana. E io ti assicuro che tenere in mano una Colt Navy è come sparare con un ferro a stiro in mano. È un ferro da stiro, è un piombo, molto più delle armi automatiche. Poi se è la Colt Walker non ne parliamo, perché la Walker è molto simile alla Navy ma molto più pesante. Un ferro da stiro, Antalì, non hai idea. Io sono la 1911, tutta d'acciaio. Ah, sai quale ho tenuto in mano io? Ho tenuto in mano il modello 1851 della Pietta, cioè la rifà, la Pietta americana, la Pietta italiana le rifà. E quel modello era Salve, in particolare, però il materiale è quello, il peso è quello. Cazzo, un piombo proprio. Poi la Walker non ne parliamo, la Walker è ancora più grossa, è proprio, era un incubo mio a quei tempi usare quelle armi. La Walker ti poteva anche scoppiare in faccia, lo sai, perché te le dovevi caricare colpo per colpo tu, cioè dovevi mettere la polvere nel tamburo da davanti e se sbagliavi le dosi ti scoppiava in mano. E ti credo, erano di quelle ad avancarica, che tu nel tamburo gli mettevi la polvere, la palla, tutto, capito? Sì, sì, esatto, vero che le conosci, avancarica del tamburo, cioè ogni camera dovevi mettere la polvere, poi dovevi mettere, se volevi, il feltrino o il miglio o quello che è. Poi la palla, c'era incorporato nella pistola quello per pressare la palla, e poi una volta caricate tutte le camere dovevi pure mettere l'innesco nel come si chiama, quello dove metti l'innesco, la capsula d'innesco, ha un nome particolare, il bacinetto, non lo so, non me lo ricordo. E nel tamburo, dai. E da dietro c'è proprio la luminello, non mi ricordo come si chiama, e quindi era una paranoia. C'era qualche folle, no? Qualche folle che faceva prima a portarsi i tamburi carichi, lo sai, si portava in una sacca con un po' morbida, no? I tamburi carichi, cioè quando sparava tutto un tamburo, anziché ricaricare, che ci avrebbe messo un bel, apriva la leva, premeva il bottone, toglieva il tamburo, metteva il tamburo carico, che è un pericolo perché con le capsule montate basta un colpo e ti scoppia tutto. Metteva il tamburo carico, guarda, l'ha fatto anche Clint Eastwood in un film, proprio si vedeva in un film che toglieva il tamburo e metteva quello carico. E figurati, adesso ci sono i caricatori per quelle a tamburo, no? Schiacci, tra che se vanno sui ragazzi ci diventa lo tamburo, però sono già di quelle già fatte, non le cartucce, non così. E poi per quello che sono nate anche le semiautomatiche. Cazzo, la mia è una piuma, avevo la Tanfoglio io, che era tipo la Beretta, era, c'aveva le sicure e tutto, meglio della Beretta, meglio, perché c'aveva la canna cromata, aveva il fusto in polimeri come la Glock, però era in doppia azione come la Beretta, era bellissima, solo che c'aveva un vizio, sparava tutta in basso. Io ho dovuto mettere l'attacca di mira regolabile, perché se no non toglievi i piedi, perché se uno dovevi sparare al cuore dovevi mirare in testa. Figurati. No, guarda, a me piacerebbe molto un'arma con le mire regolabili, persino quelle soft tire hanno le mire regolabili, figurati. Adesso vediamo se trovo una cosa, poi te la faccio vedere. E tu conta poi sia la Tanfuglio che la Beretta, già il peso a vuoto è una cosa, in più ci metti 15 colpi, immaginati il peso di una cartuccia tra piombo e ottone moltiplicato per 15, diventa un piombo. Cazzo, addirittura la Tanfuglio aveva 16 colpi, potevi mettere nel caricatore, più uno in canna di 17, però pesava la metà di una Beretta, perché c'aveva il fusto in polimeri come la Glock, hai capito? Pesava molto meno, facile a smontare, era un bisù quella pistola. Io ho messo la tacca con la regolabile, proprio per aspetta un attimo che mi stanno suonando. C'è il vicino a me? No, se l'ha messa a posto l'antenna il vicino. Oh, quello che scocciava. Beh, adesso tutto bene. Non è più venuto a rompermi le balle, sto andando con 5 watt, infatti. Beh, meglio così, dai. E chi era? Mia moglie che mi ha portato le sigarette. Non fumare. Datti all'alcol, te l'ho detto. Di male in peggio, l'alcol ti è ammazza prima. Eccola qua. Vediamo se mi fa vedere il nome. E cosa, Marco? Ehi, aspetta che ho trovato quella maschera che hanno i carabinieri quando fanno antisommossa. Vabbè, qua hanno scritto una stronzata, hanno scritto israeliana, non c'entra niente. Comunque la 400/3. E faccio una ricerca migliore e ti dico poi il nome, dai. Sì, cappa. Quella lì era un bijou, quella pistola, me ne sono a un barrancello di sorso l'ho venduta. Vabbè, ma la Glock è una pistola con le palle, dai, fregatene, è anche più leggera, no? Più leggera e più precisa, perché non c'è stato bisogno di mettere nessuna mira regolabile, dove miro va il colpo, è un bijou, pistola così bella non ne ho mai visto. Sparo benissimo anche con la 765 io, quella piccolina, per modo di dire piccolina, perché è piccola di coso, però va di danno. Ah, ecco, ho trovato quella maschera che usano i carabinieri, o almeno una delle maschere, è una SGE 400/3, SGE 400. La ditta che la fa però non c'è scritta, eppure aveva a che fare con una ditta italiana, lo sai, con una ditta italiana proprio, me lo ricordo, che però ha anche una sede in America. Diciamo che c'ha il filtro, puoi mettere sia a destra che a sinistra, c'ha un po' di roba, membrana fonica, vabbè, grazie, puoi bere anche con la borraccia, c'ha un sistema per bere anche se c'hai la maschera. Cappa, ehi, vabbè, l'importante è... Non si è fatto sentire nessuno ancora, boh, tutti morti sono, Marco. Ma non entrerà nessuno, me, non credere, forse Giulio entra, l'altra giorno era entrato lui, però Claudio credo sia indeparato nell'altra casa, poi sai, Alghero saranno al mare, cioè, sono tutti ormai in estate, sono tutti a zonzo. E hanno ragione, io secondo me va, stanotte me ne vado con mia moglie a pigliarmi un po' di fresco, in giro, dopo cena, me. E fai bene Natalia. Cazzo, io ne ho tolto il baracchino dalla macchina perché temevo che me lo rubassero, perché è troppo grosso, cazzo, dove te lo metti? Io lo toglievo, perché se lo lasci te lo rubano. secondo me lo rubano, no, non è da lasciare fisso. Fisso lasciamo un baracchinetto piccolo piccolo che poi nascondevo con un pezzo di carta buttato così. Però lasciare quelli belli no. Oh. Infatti fisso io vorrei trovarne uno piccolino che ci sia dentro il cassettino, mi. E poi magari mi metto una colonnina come quella che c'ha Gianni davanti. E così l'audio esce bene lo stesso. E così almeno chiudi il cassettino e non si vede nulla. Però così cazzo si vede troppo. Gli ho messo lo straccio sopra, però cazzo è troppo maduro. Lo so. Purtroppo bisogna mettere le fare. Io ho quel sistema veloce con quelle viti a galletto. E senza di quello era un problema, Viti a galletto, e dove le hai buscate? Cioè io non so se l'hai visto, io ho un portagente aperto, no? Sopra c'è il cassettino chiuso, sotto c'è un portagente aperto. Io ho forato da parte a parte i portoggetti, poi sulla staffa metto queste viti e rondelle, le faccio entrare nel portoggetti e metto quelle galletto, sai quelle viti che abitano a galletto, che fa in fretta, no? Le stringi con le dita. E lo fisso così. Poi quando torno a casa svitto, tolgo e me lo porto via. Ma la mia è diversa la macchina, cazzo, è un casotto. Infatti con la Opel sono stato fortunato a poter usare quel sistema. Le altre macchine non hanno quel cassettino lì. Un casino, Infatti, vi buscano un baracchino, insomma, piccolo, che ci sia dentro il cassettino e usare quello. Perché se no tocca ogni voce a bucciattina preso, c'è chi ci va a ragioni. Era bello perché funzionava benissimo. Lo so. Comunque io ribadisco, il più silenzioso baracchino in macchina è il 3009. Che ne so, magari sarà un po' meno sensibile. Ma macchina un bisù, il più silenzioso. Poi io sempre gli do appena appena di squelch, tanto da levare il soffietto di fondo. Ed è un bijou. Ma è troppo grande, il 3009 come quello che ho io. Sì, la larghezza è uguale, le dimensioni sono uguali, non sta lì. Purtroppo, cioè non emetto omologati, gli omologati fanno schifo in macchina, almeno i miei fanno schifo, fanno ridere, dai. Mi piace un apparecchio bello in macchina. E poi c'è da temere, se ti ferma la polizia, magari. Io già me lo stavo mettendo sempre. No, per esempio questo è omologato. Questo è un baracchino grande, bello, con varie funzioni, ma è omologato. Ma non lo sanno loro, non ne capiscono una mazza, a meno che non sia proprio un CB anche lui. Allora, interessa avere il documento, te l'ho detto già. Ce l'ha il permesso? Sì. Bollettino? Ecco qua, fatto, a posto. Infatti io ce l'ho in macchina la fotocopia del bollettino e della concessione. Natali, WhatsApp ce l'hai sempre disponibile, sì? Sì che ce l'ho disponibile, se vuoi l'accendo il telefono, perché ce l'ho nell'altro telefono WhatsApp, ecco qua, allora l'accendo. Dov'è? Ecco qua. Sì, ce l'ho disponibile sempre, non c'è problema. Senti, pausa, non ti preoccupare, sono io che sto trafficando qua. Ecco qua, acceso. E adesso ti mando una foto, dai. Ecco. Quella che sto mandando è quella che ho visto dai carabinieri. Esattamente negli scontri di Notav, me. Guardala, puoi mettere il filtro davanti oppure ai lati, come vuoi tu. Cazzo, bella questa. Questa è la SG400. Adesso ti mando quella della bella, quella dell'esercito italiano, la M90. Molto molto bella. Quella potrei buscarla. Magari, se la buschi te la pago, purché sia nuova. Ah, ma te una cosa, se tu vuoi, per esempio, adesso dico così, se uno vuole una maschera che resista veramente, che ne so, un attacco di gas nel vino, deve essere in gomma butilica. Quella è la mescola che resiste di più. Resiste di più agli attacchi chimici. Gomma butilica, che poi può essere bromobutilica, clorobutilica o giù di lì. È la gomma più densa che c'è, che resiste proprio agli attacchi di roba chimica fetente. È più fetente del nervino. Ma guarda che terrificante, poi il VX è terrificante, mi. Te credo. Dice che dalle convulsioni che vengono, dagli spasmi muscolari, ti si spezza la spina dorsale, lo sai? Alla faccia. No, infatti è roba terrificante, già il sarin è più blando, il VX è uno dei più potenti, pare 10 volte più terrificante del sarin. Sai, il sarin lo usano in Siria, tutte le cose lì, poi già terribile quella, cioè se non c'hai... Qua non capita, da noi non capita, ma se ci fosse un bombardamento con quel nervino là, devi avere una tutta tenuta proprio di tenuta d'aria e una maschera buona. Guanti in bottile, stivali di sicurezza, è un casino. Caspita. È certo che noi stiamo rischiandomi, cazzo, abbiamo dato le basi a questa gente, cazzo, mamma mia. Poi questo Putin è un po' ambiguo, un bel ambiguo, non lo so, ce l'ha con la NATO, ce l'ha con l'America, non si sa mai mi questa cosa combina. Infatti. Era un ex KGB, un fetentone quello. Proprio. Mi sa che a questo la mandano via, cazzo. Ma chi? A Putin o a quel biondaccio di americano? A Trump, che sta facendo casino a tutto andare. Sì, sta facendo solo casino. Loro stanno tentando di fargli quello, come si chiama, impeachment. Se gli fanno l'impeachment lo mandano via, perché tu non puoi mettere in pericolo una nazione, ma qui fa di ragazzi due. Lo so. Oh, non si riesce a trovare la foto, è uno scandalo. Che futta che mi dà, guarda. Non trovo la foto. L'avevo già trovata una volta, niente, non c'è niente da fare. Nattalino, non riesco a rispondere. Come va? Boh, ho preso adesso, ma non... Non lo so, mi si rincia tutto, non riesco, non mi scorre il tasto per rispondere, mi. Si dice scorri per rispondere, lo fate o non me lo fa. Oh. Ma roba importante. E insomma, ti stavo chiamando da WhatsApp. Aspetta che chiamo io, vediamo se funziona. Sto chiamando io, Almeno credo. Sta squillando? Sta squillando o no? No. Qua da libero qua, mi senti? Marco. Nuda. Chiuso l'hai WhatsApp? Non lo so, perché lo dovevo chiudere io? Chiudi o chiuso? Chiudi WhatsApp. Qua sembra chiuso, non vedo chiamate attive, Natali. Credo di aver chiuso, non mi compare più la tua linea. Adesso ti sto chiamando a casa, voglio vedere. O mi dà il numero sbagliato, aspetta, guarda nella rubrica del telefono. Natalino, tu stai uscendo a scariche? No, negativo. Chi è che sta uscendo a scariche completamente? Avanti. Vabbè, se vuoi entrare bene, se no. Ma qua, in questo scenario, attenzione. tardi, dai, siamo al telefono. Hola. Stata lì. Ehi, sono qui. No, io sono allibito da allora. Sono le 8:20. Io ero convinto che fosse ancora le 6 di sera, le 6:30. Prova da matti. E gira, chiudiamo qua, mi. Sì, io qua vado a fare il caffè, poi mi guardo la TV. No, me l'aspettavo, mi. Ho guardato l'orologio e mi è voluto un aggiusto. Sì, sì, è succunato. Ehi, vabbè Marco, la chiudiamo qui, cosa vuoi ti dica? Visto là come passa in fretta l'orario. Sì, ma sai perché non mi sono reso conto? Perché noi siamo andati da Ocean, io invece è come... Non mi sono reso conto del tempo che passava, per me era come se fosse pomeriggio mi quando sono entrato, invece era già metà serata, quasi. Infatti, vabbè dai Marco, ci sentiamo domani al limite, alle prossime. Domani mi metto in moto allora per questa macchina da revisionare, è tutto lì, dai. Ok, alle prossime, dai, spero di entrare.